le terre dall'alto. Apro le mani come fossero ali. Punto verso il sole, guardo verso il cielo e volerò, decollerò. Dritto nei tuoi occhi, trovo nuovi spazi, esplorerò, respirerò. Volando più in alto, fino a dove il sole non tramonta mai.